Welcome to Progipani, Madame, Monsieur, va ora in onda clandestino, cheat. E buonasera signori ascoltatori, di nuovo in onda, la seconda puntata, una delle tante, no Pe? Sì, la seconda, no, una delle tante. Giusto, vabbè, la seconda. Di Clandestino Cid, qui su fuoriondaradio.altervista.org. Vi presento subito gli ospiti stasera, alla mia sinistra la special guest della serata, che si chiama? Desirenni. Benvenuto. Un po' la voce. E sempre alla sala macchine speaker, il mitico ed epico Peppone. Conosce sempre il suo nome. Ok, ripartiamo subito con la musica e dopo andremo a trattare temi

io so, da quando sono nato avevo sentito che si parlava di Bob Marley come un cantatore famoso. Anche da noi in Africa, nel mio paese Burundi, Bob Marley è un cantatore che è famoso anche fino adesso, anche dopo la sua morte è rimasto vivo. Bellissima frase, bellissima frase. Al riguardo passiamo subito il pezzo di Bob Marley, Positive Vibration. Ed era Bob Marley, che ringraziamo di cuore, come diceva il nostro ospite, appunto ancora vivo dopo 31 anni della sua morte. Ok, adesso il momento un po' hot, come lo possiamo identificare questo momento? Lo so. Il momento saliente della serata. Momenti salienti. Ok, iniziamo subito la nostra intervista con il nostro ospite d'onore, special guest, che si chiama... Mi chiamo Desiré Nimubona. E vieni dal... Vengo dal Burundi, un paese che si trova in centro-est Africa. Perfetto. Desiré, tu da quanto tempo sei qui in Italia? Quasi 5 anni che sono qua a questa università della Calabria. E cosa studi? Adesso studio filosofia. Adesso, perché prima studiavi? Prima studiavo scienze dell'educazione. Quindi sei già laureato? Sì, sono già laureato in scienze dell'educazione qua in Italia. Poi anche prima ero laureato in filosofia nel mio paese. Bellissimo, quindi se io ti dico cogito ergo sum, tu mi dici? di Cartesio, sì, mi ricordo. E spiega ai nostri ascoltatori cosa vuol dire questa cosa per te, cioè nel tuo modo di pensare alla filosofia, il cogito ergo sum, cos'è per te? Penso, dunque esisto, sonno. ok. E senza, quindi mi rendo conto che sonno quando penso. E questo che ha voluto dire. Un plauso al nostro ospite, anche lezioni di filosofia stasera, perché ci sta sempre, giusto Pep? Certamente, la filosofia è una cosa bella. Vabbè. Comunque, allora, arrivi 5 anni fa in Italia tu. E prima impressione quando arrivi in Italia? La prima impressione che ho avuto, dico qua in Calabria perché non conosco tutta l'Italia, era l'accoglienza che ho avuto qua in Calabria. Qua all'Università della Calabria ho avuto tanti amici anche i primi giorni, prima anche di cominciare di parlare l'italiano. Usavo i gesti per parlare con le persone, però adesso mi posso anche esprimere con le parole. Perché ricordiamo che tu parli francese. Je parle français. Perfetto. Ritorni spesso in Burundi? Raccontaci un po'. Penso di tornare in Burundi quando finisco gli studi. Mi piacerebbe tornare in Burundi per lavorare nel mio paese. Sono 5 anni che manchi dalla tua terra? Sì, però ci sono passato per 2 settimane nel 2010. Sì, però da 2010 fino adesso non ci sono ancora. Capisco. Quindi, anche tu, dal tuo punto di vista, dal tuo occhio, è mutata la situazione anche qui nell'università per quello che ti concerne? Cioè, in questi 5 anni ti stai trovando bene oppure hai dei ripensamenti magari, non lo so? Mi sono trovato bene perché ho avuto gli amici, quando anche c'è una cosa che non riesco a capire perché non è la mia cultura, quindi chiedo a un amico, anche mi spiega bene tutte le cose, quindi non ho problemi adesso con le persone, con la cultura, con la lingua, lo sto provando ancora, però dico che mi sento benissimo con gli altri. Ti senti italiano? Sì, mi sento italiano di cultura. Sono adesso, sì. Due culture ci sono incontrati. Appunto, allora, dato che noi siamo già italiani, bene o male, conosciamo questa cultura italiana, parlaci della tua di cultura. Come si vive in Burundi? C'è qualcosina? In Burundi penso che c'è qualcosa di diverso con l'Italia, perché già il clima non è lo stesso. Noi non abbiamo l'inverno come qua in Italia. Quindi hai avuto l'opportunità di vedere la neve qui in Italia per la prima volta, diciamo. Sì, per la prima volta ho visto la neve qua in Italia. Anche quelle temperature, posso dire, estremi. Fa più freddo, fa più caldo. Da noi posso dire che fa tutto l'anno tra 15 e 25, 30 così gradi. Vedo meno di 5 gradi, meno di più di 30 gradi, quindi dico che c'è qualcosa che è cambiato. Quindi immagino, cioè, siete sempre solari, felici, no? Sì, da noi c'è sempre. Il nostro paese, il Burundi, quando chiede anche altre persone, si chiama, tanti lo chiamano, il cuore dell'Africa, dove si trova Centro-Est Africa, anche con il suo clima, la sua temperatura, tutto questo, la sua vegetazione, un paese turistico, quindi che mi manca anche adesso. È un paese, cioè, a livello politico, democratico? Sì, a livello politico e democratico dal 1993, però prima non era democratica, era repubblicana, però non democratica. È una colonia francese anche? È stata una colonia belga fino dal 1962, quando abbiamo avuto l'indipendenza. E quindi, cioè, a livello proprio di popolazione, come l'ha vivuta la popolazione del Burundi questa, come l'ha vissuta, sì, infatti, scusate, il fattore dei conquistatori? L'hanno vissuta, la popolazione burundese l'ha vissuta bene quando si è liberata di questa colonizzazione. Quindi il primo luglio 1962 è stata proclamata l'indipendenza del Burundi. Quindi fra poco, fra qualche mese, il primo luglio, facciamo 50 anni di indipendenza. Oh, bellissimo! La festa dell'indipendenza, quindi. A livello religioso? A livello religioso, posso dire che il Burundi è quasi cattolico, perché più di 80% sono cattolici, altri sono protestanti, altri sono musulmani. Sì. E quindi, cioè diciamo, in vita tua hai mai visto il leone? Sì, il leone sì, ci sono, quindi abbiamo i foresti dove possiamo andare a guardare questi animali, serpenti, leoni, anche altre cose, ippopotami. La savana? Sì, sì, la savana c'è, sì, sì. Cosa ti manca tanto della tua terra? Mi manca la famiglia, gli amici, e fratelli e sorelle. Hai tanti fratelli, tu sorelle? Tantissimi. Una famiglia numerosa, diciamo, una famiglia numerosa. Sono il primo della famiglia. Il più grande. E dimmi una cosa, qua in Italia hai mai avuto tipo problemi di tipo razziale, cioè ti sei sentito discriminato in qualche modo, oppure o anche cioè, nel tuo stesso paese, come la vivi, come si vive questa situazione, questo problema sociale, questa piaga sociale? Io personalmente non ho vissuto questo problema di razzismo, però sento che ci sono le altre persone che vivono questa situazione. Forse che non hanno trovato una compagnia che li può aiutare a vivere bene, però io personalmente non ho vissuto questo, però ci sono delle persone veramente che vengono come clandestini o immigrati che trovano questo problema. Capisco. Tu a quanto finirai i tuoi studi? Ci sto pensando adesso, sono all'ultimo anno di magistrale di filosofia, penso di finire quest'anno. Benissimo, benissimo. Quindi ci sarà anche la bella festa, inviteremo tutti. Sì, però mi piacerebbe anche di fare il dottorato di ricerca per continuare a studiare. Però penso di continuare. Sei vecchio. Vabbè, l'età penso che non sia un problema. Niente, adesso se c'è qualche domanda dei nostri ascoltatori, per Desire la accogliamo subito e nel frattempo presentiamo i pezzi che il nostro ospite ha portato in radio e ce li descrive lui stesso. Adesso vorrei che ascoltiamo una musica che si chiama Kurika Agasozi. Agasozi significa nella nostra lingua la collina, quindi però è una canzone d'amore che vuol dire che a quella collina un ragazzo si è incontrato con una ragazza, quindi canta sempre questa collina dove ha incontrato quella persona. Ascoltiamo. Indafisi nchuti da hemuka ahozana najo kumutima akayagira bandati wanje po namahi kwe Yesu kwa mukiswe nunu uko uke yuko kiche niyo ningwara muzindi ningwari tsuro she zoja kuga sozi kakure mani sumba fiosi ne meshe merenga bandi kirinu nirungu rano inchuti nikindi era humorisa inchuti nikindi Hemuka ahozana najo kumutima aka kayaki la banda ti wanje o na mai kwe qui si yo ya meza menyo muti mukundu kundishijwe Kunzara kia kana akakwira hira Oh no no Zoja zoja kuga suzi kakure Sabi mari sumba vyo singe meshe Mele nabandi canzone d'amore. Nell'ascolto, la commentavamo insieme a Desiree, appunto mi diceva che è strano come le canzoni o parlano di amore o parlano di guerra. Tu questa sera chi vorresti dedicare questa canzone? Te la senti? Se te la senti. Beh, penso che la persona che devo dedicare questa canzone non mi sente adesso perché è un po' rotto. Però la dedico alla mia fidanzata. Ah, che bello, che bello. Quanto romanticismo questa sera da parte del nostro ospite, bellissimo. Positive vibration. Grazie per questi complimenti. Adesso andiamo avanti con la trasmissione e dopo ascolteremo altre canzoni che ci ha portato il nostro ospite. Adesso c'è un ragazzo, Gian Domenico, che ha postato una canzone qui per noi, perché vi ricordo che è possibile postare delle canzoni e noi le manderemo in onda soltanto per voi, anzi soltanto su Clandestino CD. Andiamo con il pezzo. Vena romantica, amorosa, amorosa passione. Qui questa sera su Clandestino G. Allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che è possibile interagire via Facebook, mandando i vostri messaggi, e Skype ancora abbiamo dei problemini tecnici, quindi speriamo che per la prossima volta sia aperto anche il canale Skype. Comunque vorrei salutare degli ospiti che ci ascoltano dalla Spagna, da Cosenza, Luigi Masellis, da Arcavaca e da tutto il mondo, perché appunto l'essere clandestino non vuol dire essere un esiliato o scappare da qualcosa, ma andare in giro liberamente, essere appunto cittadino del mondo. A proposito di cittadino del mondo, leggevo che l'Erasmus, il progetto Erasmus, compie 25 anni e dal 2013, cari studenti, si allargherà a tutto il mondo. Quindi, volendo, caro Desiree, tu avrai l'opportunità di fare l'Erasmus in Burundi. Mi piacerebbe. Però fino adesso dal Burundi, tra Africa e Europa, non c'è questo progetto di Erasmus. Però ci piacerebbe che questo progetto di Erasmus arrivi anche in Africa, anche in altri paesi. A quanto dice questo articolo, dato che ha spento 5 candeline, sarà possibile al 2013 comunque spostarsi in tutto il mondo. Niente, andiamo avanti con la nostra musica. E c'è, sì, è arrivato il momento proprio, è il suo momento. La presenta Peppe questa canzone. Adesso mandiamo un bellissimo pezzo di Ray Charles, I've Got a Woman. Yeah, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town. Ray Charles, proprio, che dire, cieco dall'età di 7 anni, è arrivato a livelli anche, per dirti Peppe, no? A scrivere il brano Georgia on my mind, che è proprio uno dei suoi grandi successi, che è proprio l'inno della Georgia. Ricordando anche, cioè, a carattere, non lo so, come Don Giovanni, no? Pensa Peppe che Richard, no? Riusciva a riconoscere una ragazza se era bello, no? Però bella inteso nelle forme. No, no, le toccava soltanto i polsi. E lui riusciva. Aveva, non lo so, sto senso, come dire. Forse aveva un senso di toccare proprio troppo sviluppato. Vabbè, è un senso che abbiamo quasi tutti. Comunque, a proposito, vi posso consigliare il film di Ray Charles, Ray, che è un film del 2004 diretto da Taylor Hackford. Niente, a proposito della musica del ritmo blues, della musica country, come diceva proprio Frank Sinatra su Ray Charles, lo chiamò l'unico vero genio del business proprio per la sua musica. Cosa dire di Ray Charles? Un artista immenso, ricorda forse un pochettino Beethoven, che era sordo, ora Mozart. Non ricordo bene. Comunque era sordo e riuscì a comporre grandissimi pezzi. Invece lui cieco riusciva a distinguere le ragazze. Quindi soltanto questo, Peppe. Ricorda l'artista che era, no? Per il fatto delle ragazze. Per fare l'artista non serve vedere, serve suonare. invece serve sentire soprattutto. Mozart o Beethoven che era, non sentiva, però riusciva a fare lo stesso buona musica. E invece Ray Charles, grandissimo. A proposito, lanciamo adesso la sfida tra gli ascoltatori: chi era tra i due, Mozart o Beethoven? In palio 1300 baciotti da parte di Peppe. Andiamo avanti con la musica qui su Clandestino Cid, un pezzo dei mitici e grandi inconfabili Led Zeppelin. Led Zeppelin qui su Clandestino Cheat. Peppe, appunto, da buon ascoltatore, ha subito individuato il periodo dell'album, il periodo, diciamo, purtroppo, del declino del Zeppelin. Cioè, mai stato in declino, cioè, però l'ultimo periodo di registrazione. E l'album era? Era Coda, l'ultimo album delle Zeppelin, dell'82, mi sembra. No, mi sembra, ne sono sicuro. Comunque era Beethoven che era sorto. E avevo detto bene all'inizio. I Led Zeppelin comunque grandissimo gruppo rock anni 70 che ricordiamo che si sono sciolti nell'82 a seguito della morte del batterista Bowman, che morì affogato dal suo vomito, diciamo, mentre era ubriaco. Vabbè. Quindi consigliamo, se siete ubriachi, di dormire di fianco o di lato. Dormite di lato quando siete ubriachi. Prima di tutto, prima di andare a dormire, diciamo, vomitate. Oppure non bevete in situazioni proprio da stare male, no? Un po' di contenimento, giusto Desire? Sì, sì, sì, è meglio che ognuno, nelle tutte le cose, non è meglio di fare l'eccesso. Enjoy yourself. Yes. Ok. Andiamo avanti e leggevo una notizia che praticamente Dalai Lama sotto shock, le donne addestrate ad usare veleni per uccidermi. Desire, cosa ne pensi tu della situazione del Dalai Lama? Ti sei aggiornato in merito alla situazione che è successa lì, praticamente che il governo ha imposto un nuovo Dalai Lama, cioè non c'è più la successione come avveniva una volta, tipo il Dalai Lama veniva scelto, no, da piccolo. Adesso il governo, cioè una cosa proprio dettata dal governo, hanno fondato un nuovo ordine, di sti monaci, e il Dalai Lama è dovuto scappare via. Non ho seguito questo evento, però, perché la politica non mi occupo tanto. Cerco di conoscere qualche informazione, così per non essere fuori il mondo, però non mi occupo tanto di questi eventi, troppo. Della religione? Della religione sono praticante, però no, mi piace anche fare dei polemici in questi argomenti. Quindi se io, non lo so, ti parlo dei vari scandali che succedono in Casa Romana, nel Vaticano, tu? Non li seguo così, però non... Non voglio giudicare senza sapere tante cose sulla situazione. Qualcuno diceva non giudicare e non sarei giudicato. Sì, è questo. Ok, si va avanti con la musica, via. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, ed era il compositore che è maestro Goran Bregovic di nata a Sarajevo nel 50. Ricordiamo che era membro dell'Armata Popolare Jugoslavia. E niente, la sua folk rock, diciamo, inneggia, ormai è arrivato anche a livelli, cioè non so, quest'anno è stato anche a Catanzaro, cara Peppe. Cioè, pensa, Catanzaro, Sanremo. Ci volevo andare, però quella sera avevo altre, ho avuto un altro impegno più urgente, non ci sono potuto andare, se no mi sarebbe piaciuto andare a vedere Bregovic. Tu ci sei andato, Cicci? Anch'io ho avuto dei problemi, non sono potuto andare. Tu, Desire? Ci sono andato perché non l'ho saputo, quindi mi dovevano informare che c'era. No, qui la colpa è dell'amministrazione di Catanzaro, quindi un avviso a tutta l'amministrazione: la prossima volta che si organizza qualcosa, ma non solo nella città di Catanzaro, ma in altre città, magari informare di più. Adesso io vorrei ricordare una data, perché purtroppo noi inizialmente volevamo andare in onda ogni venerdì, poi per problemi e varie cose non si è potuto realizzare questa cosa. Ancora non si sa perché, forse la prossima settimana ci saremo di venerdì in onda qui su Fuori Onda Radio, altervista.org, clandestino CID. E niente, vorrei ricordare una data molto importante nella storia d'Italia, che è il 9 maggio 1978. Cosa accade in quella data? A Roma viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro, e a Cinisi, in Sicilia, viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato. A riguardo Peppe sicuramente mi sta guardando, quindi avrà qualcosa da dire e da ridire, quindi passo subito la parola al nostro speaker. Il nostro speaker sei tu, ci sono il tecnico radio. Vabbè. Comunque vorrei spendere due parole a favore del grande Peppino Impastato, diciamo, che come noi gestiva anche lui una radio, Radio Out. Era una radio libera, indipendente, creata appunto a Cinisi, veniva ascoltata nei dintorni di Palermo. E Peppino era figlio di un mafioso, ma ciononostante lui combatteva la mafia, e infatti fu ucciso, fu fatto scoppiare in aria sopra i binari di un treno, e venne accusato anche di essere un terrorista che voleva dirottare il treno, cose del genere. E quindi sono passati 34 anni dalla sua scomparsa, però ricordiamo che Peppino è vivo e lotta insieme a noi. Aldo Moro, te lo lascio a te, Cicci. Vabbè, non capisco perché comunque bisogna... Aldo Moro, no, è stato comunque un politico accademico italiano, 5 volte presidente del Consiglio dei Ministri e presidente del Partito della Democrazia Cristiana. Mi va di ricordarlo perché comunque entrambi fanno parte della cosiddetta scia delle stragi senza nome, no? Ricordiamo che loro sono morti e ancora c'è chi, un nanetto con la gobba, che gira ancora senza problemi nei nostri uffici. Comunque, date queste morti, mandiamo in adesso una canzone che Peppe, cioè la deve commentare Peppe questa canzone. Questa canzone è di un cantautore calabrese che tutti voi conoscete, non ne faccio nemmeno il nome. Questo pezzo è dedicato proprio ad Aldo Moro, che parla in pratica del compromesso storico. Aldo Moro, diciamo, lui era al centro della Democrazia Cristiana, che strizzava l'occhialino sia a destra che a sinistra per fare il grande unità nazionale, partiti vari. Voleva in pratica fare un miscuglio, gli estremisti di destra con quelli di sinistra e roba varia. Quindi Rino Gaetano ha voluto scrivere un pezzo appunto per ricordare Aldo Moro. Questo è Berta Filava. Mm-hmm. E dopo il pezzo per Aldo Moro, appunto, Berta Filava, che vorrei mandare un pezzo per dedicare al mitico Peppino. E ovviamente sarebbe scontato mandare i 100 passi dei Modena City Rambles. Scusate il mio inglese, è un pochettino calabrese. Mandiamo per l'appunto un pezzo dei Talco che si chiama Radio Out. Ascoltate. Bandito atteso ad un approdo senza età, nato tra le faide di una terra violentata, frammenti spenti di sana fedeltà, di galleggiare su una vita barattata, nell'incoscienza affondano. Mercanti della vita, fabbricanti della morte, nani nel silenzio di chi affonda la mia sorte, il viaggio scuro segue il mio compagno ovunque vada, in questa notte amara di terrore mi riprendo la mia strada. Tra vuoti stenti di brandelli di follia, dalla prigione di una fede rivoltante, ma un vento fradicio di fame ed agonia bacia le mani di una quiete latitante. Io la mia sorte incontrerò, brigante della terra del contrario. Padri dell'indifferenza, che mendicate onore in una vita d'apparenza, vengano signore ad affondare la mia sorte per timore della mia coscienza. Padri ed onorevoli dell'era del contrario, fantasmi che giocate a che io cada qui nell'ultimo vagito di un gitano sedentario. In questa notte amara di terrore mi riprendo la mia strada. Una volta ringraziati e ascoltati questi due magnifici pezzi, perché noi Clandestino Cid siamo dell'opinione che ricordare sia un mezzo importantissimo. Niente, volevo ricordare due appuntamenti. Domani, martedì 15 maggio alle 21.30 al B-Side suoneranno i Why Not All from Reggio Calabria, e mercoledì 16 maggio 21.30 al Plaza Café ci saranno i Jeremy e Is Better Man, unica cover band registrata dei Pearl Jam, appunto il cosiddetto Seattle Sound. Bellissimo, bellissimo il Seattle Sound, il grunge diciamo che è il mio genere preferito, quindi ci andrò sicuramente ad ascoltare questa cover band dei Pearl Jam. Volevo fare un annuncio ai nostri ascoltatori. Chiunque si tatui il nostro logo sulla fronte verrà ricompensato con una cifra a 6 zeri. Allora, questa qua non è una cosa che mi è venuta in mente a me, ma in pratica è successo veramente in America. Un 48enne americano ha scelto di tatuarsi sul fronte il logo di una radio locale, dopo che il DJ di una trasmissione gli aveva telefonato per offrirgli del denaro. Ovviamente questo qui era uno scherzo, ma appunto il ragazzo David, David, residente nella Iowa, in America, ci è cascato. Era un grande fan di questa radio. Questa radio si chiama Radio Corb. E nel 2000 David ascoltò il DJ fare questa offerta, che diceva appunto: se vi tatuate il nostro logo sulla fronte, per voi è pronto un assegno a 6 cifre. L'uomo però, pensando di poterci ricavare una buona cifra, non ci pensò due volte e corse dal suo tatuatore di fiducia insieme al figliastro, e convinti entrambi che quel tatuaggio avrebbe cambiato la loro vita. E infatti gliel'ha cambiata la vita. Dopo qualche minuto David aveva sulla fronte un tatuaggio enorme con la scritta 93 Rock, che sono montava le parole Quad City Rocker. Terminato il disegno, padre e figliastro si precipitarono alla stazione radio per chiedere l'assegno, ma si trovarono davanti alla cruda realtà. Era tutto uno scherzo e la radio non aveva nessuna intenzione di pagarli. Wilkelman ci ha provato, ha denunciato la radio, ma dopo qualche mese, vedendo che non c'era speranza di aver ragione, ha rinunciato alla causa. Qualche giorno fa è stato arrestato e le sue foto segnaletiche hanno fatto il giro del mondo. Per la cronaca, la radio, in cui il logo è tatuato dalla sua fronte, ora ha anche cambiato nome. Oltre al danno anche la beffa. C'ho di fronte questa la foto dell'uomo che c'ha sulla fronte questo bellissimo tatuaggio. Quindi se qualcuno di voi se vuole tatuare il logo di Fuori Onda Radio, passi da qui che gli diamo 1 milione di euro. Vai Ciccio. Anche più di 1 milione di euro. Comunque, volevo anche, a proposito di inchieste e di denunce, volevo ricordare ciò che c'è stato adesso, che ha avviato la procura di Catanzaro per quanto riguarda le schede elettorali sequestrate, Peppe, perché l'altra volta abbiamo ricordato le elezioni, adesso ci sono state forse dei problemini. Comunque, adesso mandiamo un pezzo che ci ha suggerito Francesco, degli UFO. Going through pages and looking down lines and lines, space of your life is only passing you by. va avanti con la trasmissione questo 14 maggio 2012, ore 22:58. Due notizie veramente da far raccogliere i capelli, proprio perché Clandestino Cid nasce soprattutto per denunciare le violenze, denunciare i soprusi, denunciare ciò che non va bene alla società e alle popolazioni. Leggo che praticamente neonati africani cavie del vaccino USARM Africa e Glaxo. Bello. C'è questo vaccino che è al mercurio, che stanno via via scomparendo, ma solo in alcuni paesi. E sono dei vaccini per delle malattie che vengono appunto distribuiti, non lo so, anche per la stessa malaria. Più il bambino è piccolo, più la somministrazione di quella sostanza pericolosa per il suo corpo in formazione. E praticamente, cioè, sono questi vaccini in via di sperimentazione, tipo anche se vogliamo denunciare delle il capitalismo in generale della Nestlé, che appunto porta avanti delle campagne di, cioè, i vari omogenizzati, i vari cereali che assumiamo ogni mattina tranquillamente nelle nostre tavole. Dovete sapere che ci sono delle donne incinte che vengono sottoposte proprio a cavie umane sotto il marchio di queste grandi multinazionali quali Nestlé e Company. C'è davvero un da mettersi le mani nei capelli. Un altro tema molto importante è il tema dei diamanti. Che belli diamanti sul collo delle belle signorotte, le pellicciotte, no? Degli animali, un bel diamantone. I diamanti in un piccolo smeraldo brasiliano di 2 carati si concentra fa bisogno alimentare annuo di 5 persone. Il Brasile continua ogni anno a produrre in smeraldo un valore economico pari a 180 milioni di dollari, eppure conta ogni anno 5.000 bambini uccisi dalla fame e dalla violenza. Peppe, mi spieghi il perché? Perché i diamanti sono più importanti della vita umana, mi sembra proprio scontato, dico, molto più importante avere un diamante al collo che mangiare un pezzo di pane la mattina, svegliarsi e avere qualcosa da mangiare. C'è gente che va a lavorare, viene pagato un euro quando va bene al giorno per raccogliere questi diamanti, però, e poi questi diamanti vengono venduti a prezzi esorbitanti per dare da, per fare mettere al collo appunto delle nostre signore, che appunto poi li vediamo passeggiare con il pellicciotto, con per i corsi delle nostre città. Mi sembra una cosa importante, diamanti. Ma appunto, a proposito, le pietre più famose, quali smeraldo, zaffiro, rubino e diamanti, hanno anche il nome di gioia. E questo è il problema comunque delle varie colonie del sud, ma anche di paesi quali Asia, Sud America e la stessa Africa, per non parlare dell'Europa. Desiree, tu al riguardo cosa vuoi dire? Conosco per i diamanti, per esempio. In Africa ci sono tanti. Per esempio c'è un paese che è vicino del Burundi, che si chiama Congo, Repubblica Democratica del Congo, che si chiamava prima Zaire. È un paese proprio ricco di diamanti, oro, però questo paese non è troppo ricco perché ha queste cose, perché ci sono delle persone che vengono per sfruttare questi diamanti, oro, però questi paesi non hanno a beneficiare su delle loro cose. Quindi ancora nel 2012 mi stai parlando, cioè, di un'azione imperialista? Non imperialista in senso della colonizzazione, però il paese, quando un paese non è indipendente economicamente, anche è difficile di essere indipendente politicamente. È triste questo. Sì, ovviamente. Quindi noi qui a Clandestino Cid diciamo no allo sfruttamento, no a questa pseudo colonizzazione, cioè a questa azione imperialista. Sì, dobbiamo dire di no, però anche è difficile che questi paesi possano anche dire no quando vogliono anche avere qualcosa di finanziamento economico. Perché quando una persona ti propone di darti qualcosa di aiuto economico, devi anche accettare, posso dire, le regole che ti dà. E questo è il problema. Questo non è libertà. Non è libertà, però quando non sei autonomo economicamente, quindi qualche volta accetti anche delle umiliazioni. Sono le uniche condizioni che hai a tua disposizione. Sì, però il problema che dobbiamo risolvere in Africa o altri paesi che non sono troppo ricchi è questo problema economico, così per essere indipendente politicamente. Ma scusa, ma ci sono sempre uomini ricchi, di stati ricchi che comunque speculano sull'Africa, no? Cioè, come farà sto paese ad andare avanti? Pensa che già alla fine della prima guerra mondiale l'Africa stessa è stata divisa con delle squadrette, cioè al tavolo pensa tipo tu eri la Germania, lui l'Inghilterra, io la Francia, noi l'abbiamo divisa così su un tavolo senza tener conto delle varie etnie, no? Ancora ci sono guerre tra i vari popoli che comunque non vanno d'accordo perché sono di etnie diverse. Sì, perché queste nel passato tanti paesi che sono andati lì per colonizzare, per occupare l'Africa, hanno governati per dividere anche. Quindi fino adesso questi paesi che hanno questi problemi di guerra etnici, guerre etniche, sono delle etnie che sono state messe da questi paesi che sono andati lì per colonizzare. Quindi non esiste l'etnia proprio, perché tutti hanno la stessa cultura, però quindi adesso si sentono già divisi perché sono cresciuti così, e questo è il problema. Quindi fino adesso accettano delle proposizioni che vengono fuori. Purtroppo questo qui è lo stesso fatto che succede anche qui al sud Italia. C'è sempre il ricatto del lavoro, c'è sempre un ricatto. Chi ha di più viene qui a ricattare perché vuole avere sempre di più. Ti propongono ti danno le briciole per poter loro sguazzare nell'oro, e tu ti accontenti delle briciole, oppure non resta altro che ribellarti. Basta tagliare tutto con gli stati europei. L'Africa deve avere la sua indipendenza. Non è possibile che ancora dopo tanti anni si continui a parlare di colonialismo, perché è la stessa cosa. Una volta ti hanno falsificato dicendoti che hai la tua indipendenza, mettendo un burattino dell'Europa a governarti in Africa. In molti stati succede questo. Ci sono l'Europa e l'America pagano, danno le armi e gliele danno le varie etnie africane, e li costringono a spararsi fra di loro, ad uccidersi tra fratelli, e poi vengono loro e prendono il petrolio, i diamanti e tutte le risorse. Secondo me questo deve finire. Anche qui al sud non dobbiamo piegarci alla mafia. È lo stesso ragionamento. Grazie per il tuo intervento, perché il problema che abbiamo anche fino adesso è di avere coscienza di questo, perché sempre quando uno ti dà qualcosa e che non vede che sta cercando anche altra cosa, quindi è sempre difficile di dire no, e questo è il problema che abbiamo fino adesso. Però il popolo dice di no. Il popolo dice di no, però quando ci sono altre persone più potenti, quindi è difficile che la sua voce si senta. Difficile. Infinita tristezza, come direbbe Manu Chao. Infinita tristezza ancora nel 2012, quindi schiavismo, imperialismo, colonialismo. E che dire? Mi viene in mente una cosa, un'immagine bellissima che ho visto l'altro giorno su internet. In pratica c'è il governante che è su una mensola sopra un dirupo, e il popolo che è dall'altra parte di questa trave, di questa mensola, che con il suo peso lo sorregge al governante. Però il popolo deve essere consapevole che se si sposta di lì, la forza di gravità porta il governante a cadere nel precipizio. Quindi il popolo ha un grande potere che deve sfruttare per ribellarsi quando ci sono delle ingiustizie. Volevo fare un saluto a Daniele di Pallagorio e chi c'era più? E Francesco di Isola. Ora volevo mandare un pezzo di... come si chiama questo, Desire? Questa canzone si chiama Leave Me Alone. Lasciami tranquillo. È stato un ragazzo che si chiama Desire, porta il mio nome, però lo chiamano Farias Big. Adesso abita in Francia, però è un cantatore troppo famoso in Burundi. Non ha cantato nella nostra lingua che si chiama Kirundi, però ha mixato tante lingue, francese, inglese, swahili e Kirundi. Awele wa demu wana kupita Kuta kutane wa demu tena Ndowe yake Farias Sikiza kambia mimi nisha kambia mimi achana na mimi Nisha kambia achana na mimi Saba Uje wapi Wala staki uje na usuri yata kunipigia tena simu Zupo yo Sikia achana na mimi bwana Sikia achana na mimi Sikia achana na mimi Kwa siliona kabwela nini Kwa siliona tuma tusongi mbele Achana nao kabisa Sina mpango Awele Get your fat ass out of here. Speak diesel. Kirimba at. Nipenda, hivyo tulivyo penda Kichani ilitenda Nilikupu nacho taka, nikakupu nacho penda Kukoto liko taka, kujirusha tulikwenda Kidos dos, calvados, mara peti swiss Mambo ya msosi likuwa ni odelis Kibos boss, ndana text, paka saga bichi Kila weekendi tukotu kisaga pochi Usiku na mchana tunafanya kama party Yote sababu ilikuwa nikuridhishe Nikufurahishe, nikumungalishe Wapambe nuksi wenzaku wapirikishe Lakini hayo yote uliona kwamba yana mana Nilishangaa sana uliyosema hapo jana Pesa lipokwisha ulianza kuzua noma Bele ya wenzio jina langu kalichoma Ofari ya zifala kabuela Hana pakula na kulala mlala hoi boy boy kitimbai Wala fai nilikaa chini Sikujua nifanye nini Machungu na majonzi alinijaa tu moyoni Kula siku tamani kulala siku tamani Kwa mambo leo nifanya siyo kuwa na hisani Ingani likupenda sasa nasema basi Na surrender tabia yako si iwezi Nakumbuka mama linambia siri maskioni Mwanangu kwenye penzi lazima uwe makini Mapenzi ya sasa si kama yale ya zamani Kina dada wa sasa si kama wale wenzi zetu Siku hizo pendi mtu kama hauna kitu Kwa hiyo mwanangu nakuhusia usisubutu Mama sikumsikia nikafanyo gararizi Bila kuchelewa nikajidumba ndana penzi Deep and come raw kumbe mtoto chunabusa lini chuna ngosi Bila kujitambua, kanipanga vanga zinga bila kujizingua Sikuwa ninaelewa na sikuwa ninatambua Kumbe mtoto huu, alikuwa ni changudo Ana mindi tungodo, akiondoka jioni kurudi mtondogo Kisoro mandandura kinyezi makwakwa Kumbe ninge goto nge nikata hata kichwa Kama vile mtu lioliwa tuna mchwa Inga nilikupenda, sasa nasema bas Kichani na surrender tabia yako si iwezi Go away Leave me alone. Nataka demo tanipenda kwenye shida na bala. Demo tanipenda kwenye dhiki na furaha. Demo tanipenda kwenye tabu na raha Sio nikiwa arose tuanze kuranda tu mita Nataka demo tanipenda kwenye shida na bala Demo tanipenda kwenye ziki na furaha Demo tanipenda kwenye tabu na raha Sio nikiwa arose tuanze kuranda tu mita Yeah, Kaya F, Pippen Belgium, Brother Mo London, Manuel from Belgium, who them know mama say. Yeah, you remember Ed? E ritorniamo in studio. Ritorniamo in studio con notizie ancora più tristi di prima, cari da Sirene. Non so se in Africa com'è la situazione del lavoro, ma qui in Italia, imprenditore Milano suicidia e donna che si butta alla torre di Pisa, purtroppo per problemi di lavoro. Anche da noi c'è questo problema di lavoro, però non è ancora arrivato a questo momento di suicidio. Però questo problema c'è anche in Africa. È un problema molto grave, anche perché comunque sta dilagando questa situazione dei suicidi per colpa del lavoro. Vorrei sapere quella di Samuele a proposito. La vita e la morte si misurano su tante cose, sul lavoro che è alla base di tutto quello che facciamo. Soprattutto se poi le condizioni di lavoro si finisce qualcuno di sopra di noi che ha come idea di farsi di accatastare moneta su moneta per fare soldi, allora evidentemente i parametri della nostra vita sono in mano a qualcuno che della nostra vita non sa niente, non gli interessa proprio niente. E allora forse è il caso che le condizioni di lavoro iniziamo a discutere noi, chissà come, chissà, forse riprendendoci in mano la materia prima, riprendendoci in mano proprio il saper fare, il fare noi le cose, piuttosto che lasciar decidere altro su quello che noi facciamo, o no? Certo, e poi ricordiamo che è sempre comunque un contesto storico che stiamo vivendo, quindi siamo vicini a queste persone, anche a tutti gli studenti che hanno finito il loro percorso di studi e si trovano in situazioni quanto drammatiche. Ricordiamo che si lavora per vivere, non si vive per lavorare soprattutto. Bisogna che il lavoro sia qualcosa che ci gratifichi, che ci consente di realizzarci, no? Che ci consente di campare la giornata, purtroppo. Purtroppo oggi chi prima si laurea prima diventa disoccupato e quindi la gente diciamo che preferisce stare all'università come che ha la funzione di parcheggio sociale al giorno d'oggi. Dopo questo parcheggio dell'università la gente finisce nei call center dove viene pagato 0,86 centesimi l'ora per lavorare 8 ore e rispondere al telefono, che diciamo che è un bel lavoro di merda, scusate per il termine lavoro. Poi che c'è più da dire? Ricordiamo innanzitutto che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro e quindi abbiamo detto che Ci hanno preso in giro dal 48 quando è entrata in vigore la Costituzione ad oggi, facendoci credere che in Italia si lavora, anzi è fondata proprio su questi lavoratori. Quanto su Agnelli, insomma. Sì, ecco qua, volevo prendere al balzo il tuo assist che mi ha lanciato, ricordando che Agnelli rinnova il contratto a Del Piero, perché Del Piero deve lavorare, ancora è giovane. Deve lavorare almeno un altro anno. Scendiamo all'ironia. Oggi è il 14 maggio. È il 14 maggio 1928 in Argentina, esattamente a Rosario, nasceva una figura a cui sono molto legato. Si chiama Ernesto Guevara della Serna, meglio conosciuto come Ernesto Che Guevara. E su Che Guevara si potrebbe parlare da qui a domani mattina, però volevo dedicare un pezzo al nostro Che Guevara. Ciccio, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo soltanto dire che non soltanto nomino che da ritrovare sulle magliette, sulle bandiere, nelle varie contestazioni. Comunque ricordiamo che aveva ben due lauree, comunque ha lasciato tutto, la propria famiglia, per andare a morire per un ideale di libertà. Libertà che non è concessa a tutti, anche la libertà di lavoro

Niente, adesso in sottofondo potete ascoltare il pezzo del Burundi scelto da Desiree per salutarci. Vuoi dirci due parole su questo pezzo? Questa canzone si chiama Rekanai, quindi voglio partire in Burundi dove sono nato, dice questa canzone. Benissimo, e salutiamo Desiree con un abbraccio affettuoso e ringraziamo per il suo tempo, che è stato utile e ha dato un insegnamento comunque a tutti noi. Grazie mille. È stato un piacere per me e grazie. Alla prossima. Agahinda gahinda namaganya mulago gahinda kanyaga nanteye nicitwi majamati abenamba ni watora uturya twotwo malaika yaba yakubonekeye sitimeshere datashi wacu mubiyaga bigari Shele, oh, sidi mbeshele, datashi wachu, mubia gabi gari. Sumira avenamba na byumvishije na yanje matwi kibonera na yanje maso bicitwe jano iryo bara byatanurumbo isaka ibagirane rekana rekana iwacu qui in studios della P2, laboratorio politico all'occupata. E comunque ricordiamo che sono ripartite le proteste di indignato su tutto il mondo, caro Peppe, in tutto il mondo. Adesso mandiamo un pezzo che ha suggerito un nostro ascoltatrice della Polonia, Alessandra, che è un pezzo di Gioco. Thank you. would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how torna in studio. Niente, vorrei salutare Kiss Up Crew che ci ascoltano dal Valencia All Star, tutti i nostri ascoltatori da tutto il mondo. E niente, ricordiamo che qui in aula, Cubo 40, aula P2, mercoledì 16 maggio alle ore 17.30 ci sarà Cineforum, dibattito, cena sociale con il titolo Così è stato. Ci sarà niente, la visione del film documentario Black Block. E dopo il documentario del film Diaz. Comunque avremo anche l'opportunità di assistere al dibattito e ci saranno gli ospiti inediti quali Claudio Diane Salvi, Giuseppe Tiano, Antonio Campenì e Giuseppe Parise. Dopo comunque ci sarà la cena sociale, dopo il dibattito. Comunque è una serata da non perdere, da non perdere, da non perdere. Ok, ok. Leggevo una cosettina dei nostri cugini americani. Perché cugini? Perché così hanno voluto. Comunque, forse non tutti sanno che la più grande colonia statunitense. L'Italia, boh. L'Italia proprio, no, d'Italia. Ah, è impossibile. È impossibile. Non mi scherzare, dai, per favore. Nel mese di gennaio del 2002 firmò un accordo che insieme al trattato definitivo Open Sky Treaty firmato nel 2009 sancì l'inizio ufficiale delle attività di aerosol clandestine sul territorio italico come per stessa missione del Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano. Ma scusa, bodega, ma è passato? In un certo senso sì, cioè passa la tosse oppure o mi viene oppure cioè ti viene, perché comunque ricordiamo che questi aerei, no, lasciano ste scie, comunque andranno ad inquinare tutti i nostri accolti, le nostre acque. Ma scusa, è un inquinamento tipo ustica, insomma una scia tipo ustica, viaggiano qua e poi aerei cadono morti, una scia del genere, insomma. Sì, sono proprio quelle scie che, cioè, non so se io sono un romanticone, quindi mi va di guardare il cielo, no, nelle splendide giornate primaverili estivi, e vedi, no, queste scie, no, tu pensi magari è partito, va in Africa, è partito, va in Germania. No, sono proprio sta aerei che circolano sul nostro territorio, sul territorio italiano, e liberano ste scie, no, che comunque anche pesciolini nel mare ne soffriranno. Wow. Salutiamo tutta Petilia, Policastro e il nostro amatissimo Giovanni. Peppe, tu scommetto che un giorno vorresti diventare comunque un pilota di questo aereo. Certamente, è il sogno della mia vita guidare un F-35, un aereo che solo un aereo solo vale quanto tutto il finanziamento dell'università pubblica. Figurati come quanto è buono un aereo del genere, dico, a quanto serve pure, è molto colto questo aereo, cioè tutta l'università pubblica dentro un aereo, che bello. Questi diciamo che questi aerei portano libri, istruzione, in Afghanistan mi sembra che portano, li lanciano con dei contenitori a forma di bomba, ma non sono bombe. Li lanciano là sopra e da là dentro ci sono tanti libri medicinali che servono durante le missioni di pace che noi europei andiamo a fare in questi scattivi stati come l'Afghanistan, dove ci stanno i terroristi, queste persone che fanno gli attentati, questi islamici, queste brutte persone che portiamo la cultura, perché diciamo che portiamo i numeri romani dagli arabi. Dopo che loro hanno portato i numeri arabi a noi, adesso noi li portiamo i numeri romani, perché noi siamo, vogliamo tornargli la cultura che ci hanno portato nel passato. E poi, non lo so, Ciccio, tu volevi aggiungere qualcosa? Certo, è un po' come il discorso che se ne parlava prima con Desiree, cioè sto confronto con questi paesi industrializzati che comunque c'è in Africa, non soltanto per quanto riguarda le gioie, cosiddetti zaffiri e diamanti, ma anche qui in Italia, come cioè sotto l'occhio di tutti, no? Non è che dobbiamo immaginare l'azione imperialista come viene il soldato con il fucile con l'impunta in testa e finisce lì. No, l'imperialismo è anche questo, avere delle basi, naturalmente sotto accordi stipulati dopo che certi uomini comunque nel lontano 45 hanno voluto dire la sua, adesso ne paghiamo le conseguenze noi. Conseguenze che comunque cioè è sotto, non è sotto gli occhi di tutti, ma purtroppo volano sulla nostra testa sti aerei. Anche ricordando sempre sti famosi cugini americani, no? Il monopolio che hanno sul petrolio, abbiamo una notizia dell'ultima ora, caro Giovanni: la corsa irrestabile al petrolio, prezzo raddoppiato entro il 2022. Ma guarda quanti sono bravi questi cugini. Appunto pomeriggio discutevamo con Samuele sul fatto che i cugini non te li scegli, i parenti in generale non te li scegli, noi gli americani. Ma a ricordare che comunque dalle nostre parti si dice che i parenti siano i denti. Dolano come denti. Comunque, sul sito della Repubblica Le Inchieste è possibile leggere un bellissimo articolo, Uomini solo a Palermo, uomini che comunque, ricollegandoci comunque al problema stato, al problema lavoro, sono stati uomini che comunque hanno lavorato tanto, ma mi spiace dirlo, ma anche inutilmente, perché comunque chi gli era vicino in quei momenti gli ha voltato soltanto le spalle, comunque il loro lavoro è servito e serve. Infatti invito tutti anche a informarsi, a portare avanti il loro messaggio. Sono uomini come La Torre, Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, che comunque vittime dello Stato, di uno Stato che comunque galleggia e si fa trasportare come una nuvoletta, non so, specie Dragon Ball, no? Goku che aveva la nuvoletta, no? Lo Stato che si fa trasportare e ne ritrae benefici. Samuel? Ma è un po' come dicevamo prima, se lo Stato è basato sugli agnelli, su quelli che detengono il potere, è chiaro che anche un altro potere che magari non è all'interno dello Stato, comunque poi si trova a fare alleanze, si trova a condividere la stessa prospettiva, lo stesso punto di vista di qualcuno che vuole arricchirsi, senza neanche immaginare quello che è come si traduce questo potere sulla società, sulle persone come noi che vivono quotidianamente di lavoro, essere eccetera. Questo è un problema. Io comunque per quest'uomini ho aver scelto una canzone di Lucio Battisti, Gli Uomini Celesti, e gliela dedichiamo tutti. Sognare che il futuro od un messia, presto tutto cambierà ed avrai come vanto una nuova condanna. Ti diranno che il vento è il respiro di una donna. E per far sì che un lamento, uno solo, copra ogni tormento. Siamo ritornati qui in diretta da Clandestino Git. Come, parlando di stragi di Stato, come non ricordare le varie stragi di cui sono state vittime anche molte persone innocenti, come la strage di Ustica, di Piazza Fontana, di la stazione di Bologna, di Portale della Ginestra e di Piazza della Loggia. Queste persone che si trovavano lì, forse per sbaglio, sono state coinvolte da... sono morte così, senza nessun motivo, e ancora oggi diciamo che i motivi sono nel mistero, sono state diciamo occultate queste stragi. Non lo so, Ciccio. Vabbè, un po' diciamo la storia di tale che prosegue e va avanti sempre così, delitti risolti, anzi andiamo a puntare, no? Magari l'immigrato appena arrivato, no? Oppure mi ricordo quell'anno che comunque ogni telegiornale parlava del senegalese che stuprava, del rumeno che rubava, del ragazzo palestinese che ha quasi tentato una strage. E invece su questi fatti che comunque lasciano quasi un disgusto dentro, pensa a tutte le famiglie che ancora aspettano risarcimenti, anche, anzi come mi suggeriva, diceva prima Samuele, hanno dovuto pagare proprio loro. Comunque, speriamo che si vada avanti. E con questa speranza, almeno c'è qualcosa su cui sperare, che è l'amore. L'amore che questa sera su Clandestino Cid avete l'opportunità anche di fare delle dediche. Abbiamo una dedica da parte di Daniel al suo amore Rita, che dedica una canzone del mitico Francesco De Gregori, Rimmel. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. O ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. O ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Viva l'amore, viva l'amore. Passo la parola a Peppe per una news. No, non è una news, è una notizia, diciamo, un pochettino nerd. Esiste un sito che si chiama occupiflash.org ed è il movimento per liberare il mondo internet da flash. Perché flash è il male. I nostri browser sono impallati almeno 15.000 volte stasera e ogni giorno si impallano dovuti al flash, che è quel plugin bellissimo che ci permette di giocare su Facebook, di vedere YouTube. Esiste anche un'alternativa su YouTube. Basta che scrivete dopo YouTube/HTML5, che sono i video secondo il formato HTML5, non più secondo Flash, che è molto più leggero, ed evitate di fondere i vostri processori e di surriscaldare i computer. Va bene, passo la parola a Ciccio. E niente, siamo quasi in chiusura questa sera. Io voglio salutare innanzitutto Lorenzo Blues, che è appena arrivato, dei Mozilla Bros, grande bluesman. Adesso viene e ci dirà due paroline. Dai Lorenzo. Buonasera, grazie per lo spazio, grazie a Ciccio per la dedica. Due paroline per che cosa? Sono stata una serata molto, molto nerd, come diceva Peppone prima. Non si è parlato di flash, ma si è parlato di sicurezza in rete, di crittografia e di sicurezza, come ho detto prima. Si è parlato di Autistici Inventati, che è un network che offre numerosi servizi per il web, come webmail, mailing list e spazi web. Se aveste partecipato alla serata avreste sentito, ma probabilmente siete stati ad ascoltare il clandestino Sid Cid, scusate. Non è inglese, bene. Insomma, vi siete persi una serata che comunque è stata molto interessante. Lorenzo, però abbiamo i nostri inviati speciali, o indignati speciali, tipo tu, che va in giro e comunque porti delle buone notizie, belle notizie. Lasciando stare poi la musica, che era un pochettino dark, posso essere... cioè me ne sono tornato proprio quando il gruppo ha cominciato a suonare. Vabbè, la scusa è che stavo male, però non era proprio il mio genere preferito. Lo sappiamo, un grande bluesman come te, la musica gli scorre nelle vene, diciamo. Adesso io vorrei toccare per 5 secondi, 10, 15, comunque un tema importante, la Grecia che in questi giorni viene martorata proprio a livello allucinante, bastonata in testa, costa euro, anzi si pensa, hanno detto nelle varie televisioni, chi purtroppo non può accedere a internet deve ascoltare giornale, è fricato, sì, che si pensa di ritornare di nuovo alla vecchia moneta, al vecchio conio. E stasera, guardando un po' così sfuggita, no? Il programma Radio Londra, di quel maialotto grasso, porco, con tutto il rispetto per i suini, perché Peppe ci tiene. Sì, Ferrara, stiamo parlando, Peppe. Giù, io non conoscevo il programma, però quando Ciccio ha parlato di un maiale del genere ho pensato subito a quella figurina di Giuliano Ferrara. Ricordiamo, grande stima per Giuliano Ferrara. Diciamo che condivido il gesto tecnico di Giovanni qui, e con un gesto tecnico alquanto, diciamo, degno, passo il microfono di nuovo a Ciccio. E niente, si parlava della Grecia e lui, il signor Ferrara, con grande chalance, diceva non è un problema di adesso, è un problema dei vari stati, come c'è stato anche in Italia, ma non pensate che la Germania arriverà a questi livelli. Ovvio che non arriverà a questi livelli. C'è chi ti governa e c'è chi viene governato. Quindi c'è un grande sbalzo tra le due cose che vanno contraddistinte e successivamente con una accurata analisi anche riflettere su questi problemi. Comunque siamo vicini al popolo greco. E il prossimo inverno, caro Giulio Ferrara, ti facciamo sazezza! Ringraziamo Giovanni per il suo sì, anche la parte animale che esce nelle più belle serate. Adesso andiamo avanti con la musica, un pezzo dei 108, Open Your Eyes. Ci sta. Suona. Yeah.